solito alle 9:30. Dico di cavolo, adesso che c'è cliccato in camera. Io mi sono cliccato ancora alle 9:15 facciamo il cane in casa, perché il cane quando io mi devo far coricare a Simona, poi mi corico io e a voi si corica lui, e quindi quando mi alzo devo chiedere permesso, perché se dovesse svegliare il corpo e mi muovo si tratti che io amo quello. Posso prendere le mutande? Perché dormi con la tecchina a lavori? No, ma non è vicino al letto, capito? Quindi non vuole che... Perché stasera gli ho fatto pigliare sul colo. Stavo sistemando il baracchino e ha sentito Roger Piccolo 4 ore, ha fatto un brinco nel letto. È uscito fuori e si è pisciato addosso. E io lo spavento. Sì, lo spavento, voi. Che all'anima. Così tanto potente la situazione. Poi è pronto, ma non trovo più del cane. Cosa quando è quello c'è o è coricato da qualche parte? No, a volte lo prendo, capito, perché sta sempre a casa di mamma, da una parte all'altra, sta, capito, aspettando che magari vada a pigliarlo io, cosa del genere, e a me mi sente subito, appena rientro mi sente, perché a un chilometro mi sente, si mette a pagliare la porta e vuole per forza venire con me, capito, a casa, perché qua siamo un pascià sempre, mangia, dorme, fa quello che vuole, invece giù non lo può fare, giù è una cosa diversa, giù è stressato. E ti dice ma cane, capito, no, già, anche lo stesso che abbiamo un cane a friggere a casa, una femminuccia, Chanel, si chiama. E guarda, sinceramente ai cani mancano la parola, la verità, fanno capire quello che vogliono. E anche io ogni tanto non me ne letto, ma i piedi dove è letto, perché si avvicina appena appena, in un caso non va tanto a stare lì, tranquillo, le piedi, e letto mi va bene. Però come devi chiedere le cose per dire, già si fa capire, adesso due giorni fa, si lamentava sempre. E poi alla fine cosa ha fatto? Si è avvicinato al ventilatore, ma la gamba lo toccava al ventilatore. Oh, voleva il ventilatore acceso, devo dire, abbiamo provato a accendere il ventilatore e si è messa. Proprio in direzione dell'aria, si è acceso con il capo in terra, e nel 22 del giorno con il ventilatore acceso. Dimmi tu, guarda, mi dicevo l'animale. Io lo so, ma fa anche il cane che di mio fratello così. Si è messo lo stesso nel letto, a gambe aperte, e si stava pigliando il fresco dal ventilatore. So che poi la Simona si è alzata e è venuta a mamma, come se non stava in casa in fiamme, ha pigliato, se non si torna subito dentro di mostri che già la gamba. Capito, perché è entrata senza così, senza chiedere permesso, perché ce l'ho io vicino, capito? Poi l'ho detto io su e quindi deve stare vicino al padrone, in cria, e quindi stava già partendo a musicare. Una volta che ha musicato a vuoto, allora si è messo sopra il letto, si è messo domani dopo un 4 ore, lì, piano, finché non si è fatta carezzare. E poi alla fine allora ti vuole bene, dai, cos'è? Se lui è un cane piccolo girato, sì. Che mi vuole bene già, quello non è un problema. Patrice per me come cane. No, un paio di volte ho girato un paio di scoracciate però, perché un giorno in campagna sono sceso, c'era una cagnetta, c'era, in calore, lui la perseguitava, siccome i cani non sai come fanno, seguono gli altri cani, allora gli ho toccato questo qui, quindi la gente va alla Montinito dove c'era la Montinito della Beluga e ci devo uscire al casino. Stava andando a recuperare a lui e lo si gira, mi ha musicato la mano, ha preso un pezzo di cane e gli ho tirato a fianco per me. Dopo mezz'ora è venuto a piano piano. E da giorno fa il proprio bambino, dai, non è che dire, non gli ha fatto tanto piacere la cane, perché già l'ho conosciuto anch'io da tanto. E gli sto dicendo, si è girato a me, gli ho detto, no, gli ho detto, girati a me lo va bene, ho preso la cane e ho al culo mio, due passate, gli ho fatto, è stato più di un'ora offeso, e tu, peggio per te, gli ho detto. Ma già non sono stupide, vabbè, poi il tizio ce li porta a comportarsi così, poi la vita se ne rendono conto, da quando non li cerchi più già, già si fanno, già si fanno perdonare in un modo o nell'altro, non sono tutti, ripeto, sono parole, ma che secondo me ai cani. E poi mi dà fastidio quando senti in giro e c'è un cane. Sarebbe stato bene essere un cane. Perché il cane si comporta come persone umane, forse ancora la gente non l'ha capito. Io lo so, ma non è che io sono legittimo, che mi manca solo la parola, la verità, perché se io ho visto cani, la verità belli, mi manca solo la parola, rimanga. Se sono attrezzati bene, sì, fanno anche carriera, ti fanno fare anche i soldi, non solo l'altro. Io ce lo dipendo anche dalla razza, sì, dall'addestramento, ci vogliono anni, anni, però con la verità non è che mi piace così tanto per dire, sai, sfruttare la bellezza del cane per fare i soldi. Io se a casa, tranquillo, diciamo tra virgolette come una persona, per fare anche pagliata adesso, il minimo rumore ci avverte per suo dovere. Non è che non dobbiamo convocare proprio una persona, la vediamo giustamente i suoi diritti, che rispettano e va bene così, come molte tante altre persone non lo fanno, è la verità. Comunque sono state sempre punti di vita uno di verso dall'altro, anche loro vanno rispettati, solo che in questo periodo minimo chissà quante persone per farsi le vacanze li abbandonano e li gettano per strada, maledetti. Se qualche vedo ogni giorno cani schiacciati a mezzo alla strada, la strada per l'alghiero, una cosa impressionante, ogni giorno ce n'è uno, guarda. Sì, io lo so già, pensate che abbandono, perché non si riportano appresso. Loro vorrebbero abbandonare a posto del cane, perché il cane se te lo prendi, lo devi tenere, non è che è arrivato adesso a tesi romanti, ma è tutto. Anche perché col caldo che c'è, impazziscono i cani, se quando stanno senza mangiare, sta bene. Alla fine poi, ha forse trovato in uno, detto, mi sente 8 tutti, cosa, più che ti attaccano e vai a difenditi tu con otto cani che ti mossicano una gamba o l'altra, come fai? Non so, lo sai quando c'erano nel paese, tu, ma quanti anni hai? Poi sono stati tutti ritirati, invece in un canile, e questa persona, questa signora, li ha presi in custodia con lì, e ci ha messo anche i debiti per, diciamo, per trattati questi cani, adesso ne avrà un animo, un 350-400 con i debiti sino al coro. E poi per fortuna, per dire come Dio, dopo anni e anni di battaglie, stai riuscendo piano piano ora a risolvere il problema, il fatto finanziario, mettere in posto anche. Poi si è preso un grande impegno questa signora, e finché campano questi cani deve lavorare ogni giorno, dopo che riesce a lavorare, che fa la maestra, verso la di pranzo va nelle vendite a Sassari e aspetta, diciamo, che gli avanti, che le persone gettano, e poi con questi avanti qua li porta lì nel cane e li distribuisce piano piano per i cani, perché alla fine sta facendo campare così, perché la maggior parte sono stati abbandonati e la mia si è preso questo grande impegno, già avrà un 56-57 anni. E per fortuna dopo anni di battaglia è riuscita a farsi aiutare un po' dal comune, un po' dalla regione. E dunque ha dovuto prendere il suo terreno, adibito al canile, con sempre spese sue, che non è riuscita alla fine a mettersi i debiti per dire, vedi, alla fine quando uno ha mai animali, c'è il capriccio uno che deve fare, sempre sola. Beh, i debiti sono, i cani devono andare a norma, devono fare un sacco di cose, e mamma mia, è un casino adesso, è una questione dei canili. Vabbè, Antone, io adesso me ne vado in quaretti, se vai ci sentiamo domani, se non sarà, se rientro presto già entro a baracchino, come oggi sono entrato alla una. Domani rientra la 1, lo stesso, cioè dopo pranzo entra palattino, così sistema questo palattino di Franco, ti metto questo GP, glielo piazzo che c'è ancora fresco, poi non si riesco più a fare niente, che c'è un caldo, quando usi il saldatore c'è la differenza, il fornello al gas che e comincia a sudare. Allora ci vediamo domani, dai. Se il caso mi chiama Coso, Antonio, già ti faccio sapere domani, per sabato. Perfetto, non c'è nessun problema, va bene, non male, dai, in un modo ci sentiamo, d'accordo, sentiamo domani, ok, buonanotte, sogni d'oro. Aspetta, ciao.